Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buona domenica a tutti da Gegè Telesforo, questo è il soundcheck di Radio 24, prova del suono numero 189, prontissimi per dare il via agli squilli di tromba, ovvero i concerti più interessanti presenti sul nostro territorio, ma anche per gli italiani viaggiatori appassionati di musica in cerca di sonorità. Buon pomeriggio al nostro Francesco Tromba. Buon pomeriggio a tutti. Sei pronto, operativo, hai mangiato? Sì, mi sono abbuffato. Abbuffato come sempre fai la domenica, perché la tradizione va rispettata. Eh sì, la domenica bisogna mangiare. Timballo calabrese con nduja e varie pasta cose. Pasta al forno varie. Piccante al punto giusto. Certo. E quindi sei carico, pieno di energia. Carichissimo. Allora, che cosa ci consigli per la prossima settimana? Che cosa succede in Italia? Cosa possiamo andare a vedere dal vivo? Ok, iniziamo dagli artisti italiani con Ornella Vanoni, che sarà questa sera al Teatro Petruzzelli di Bari e il 27 al Teatro Duse di Bologna. Cristina Donà invece il giovedì 27 sarà alla Salumeria della Musica di Milano. È bello che Cristina Donà continua a girare per club. Sì, perché è interessante, bello. Possiamo dire che comunque è musica indipendente, quindi non... No, ma è la dimensione proprio del club che dà sempre quella scossa e quel brivido. Bisogna continuare a frequentare i club. Sì, io li preferisco ai grandi spazi, parchi, diciamo, ai grandi teatri. Fiorella Mannoia sarà anche lei giovedì 27. Beh, Fiorella non può fare i club perché il pubblico non c'entrerebbe, non oppure dovrebbe fare 10 date. E quindi dove dobbiamo andare per vedere la bravissima Fiorella? Alla Città del Teatro di Cascina in provincia di Pisa, oppure il 28 al Teatro Ponticelli di Cremona, o il 29 al Teatro Europa Auditorium di Bologna. Sarebbe carino vedere il concerto nuovo, perché probabilmente suonerà anche brani tratti dal nuovo album. Sì, probabilmente ci sarà anche qualche ospite speciale ogni tanto. Non fra so quelli in quali... presenti nel disco, sì, eh? Non so in quali date, però magari ci sarà una sorpresa, una sorpresa potrebbe esserci. Fabi Silvestri e Gazzè il venerdì 28 al Pala Partenope di Napoli. Rimanendo su un artista italiano, però in realtà suona fuori dall'Italia, segnaliamo Greta Panettieri, che dal 27 al 30 sarà a Barcellona in Spagna in tre location diverse. La bravissima Greta Panettieri, che brava Greta, canta di tutto, dal jazz alla musica brasiliana. E a Barcellona esattamente che cosa farà? Non si sa, perché è stata anche a New York, dove ha portato il progetto dedicato al sound italiano degli anni 60 con molti brani tratti dal repertorio di Mina, però non so a Barcellona che cosa farà esattamente. Credo però che nelle pagine ufficiali, nel sito di Greta, si potranno trovare alcune informazioni riguardo proprio a queste date spagnole. Abbiamo finito con i concerti italiani? Segnaliamo l'ultimo concerto degli Einsturzende Neubauten, il gruppo post-industrial tedesco, che suonerà il 28 all'Auditorium Parco della Musica e il 29 all'Auditorium Rai di Torino. Questi allora gli appuntamenti più interessanti da seguire nel nostro paese la prossima settimana. Passiamo alla musica. La prima parte del nostro soundcheck vorrei dedicarla alla voce di Lala Hathaway, cantante americana, figlia del grande Donny Hathaway. Un momento di grandissimo successo per lei in virtù delle collaborazioni prestigiose che ha vissuto discograficamente ma anche dal vivo nell'ultimo periodo. Lala Hathaway apre il nostro soundcheck con questa sua versione di Someday We'll All Be Free, una composizione proprio di suo padre Donny Hathaway. Lala Hathaway non aveva mai interpretato una canzone del papà, forse per rispetto, forse proprio per non calarsi anche nella tragedia vissuta in famiglia, perché il papà, lo sappiamo, si suicidò quando Lala Hathaway e sua sorella Kenya erano proprio bambine. E per la prima volta sono proprio i Take Six a coinvolgere Lala Hathaway in questo meraviglioso arrangiamento arrangiamento di Someday We'll All Be Free, curato nella produzione da Marcus Miller. Lala Hathaway, protagonista del soundcheck di Radio 24. Take it from me. Eh sì, Lala Hathaway con i Take Six in Someday We'll All Be Free. E la prima parte del nostro soundcheck la dedichiamo proprio a questa formidabile voce, una voce versatile, ha cantato di tutto, dal jazz al soul all'R&B, e in questo momento è probabilmente la cantante più richiesta sul mercato discografico e soprattutto nelle performance live dai nomi del momento, mio caro Francesco. Sì, ha collaborato con tantissimi artisti ultimamente, ha fatto album anche con gli Snarky Puppy, con i quali ha vinto. E allora seleziono subito il brano con il quale gli Snarky Puppy hanno vinto il Grammy nell'ultima edizione. Lo suoneremo dopo, perché adesso invece vorrei andare a un altro album vincitore dei Grammy Award con la partecipazione di Lala Hathaway, e credo che proprio la versione di Lala Hathaway di Cherish the Day, il brano portato al successo da Sade, la ricordi la bellissima Sade? Non benissimo. Allora ti farò ascoltare i dischi di Sade. Questa però è la versione rivisitata dal nostro Robert Glasper, anche lui in Italia la settimana scorsa per vari concerti nei vari festival, anche al Festival Jazz di Roma, che credo sia ancora in attività. Sì, è ancora in atto. Allora, poi facciamo una cosa: nella seconda parte, quella che inizierà alle 19:15, annunceremo i concerti jazz presenti nel nostro paese. Ma torniamo allora a Lala Hathaway con Robert Glasper, Cherish the Day, vincitore del Grammy Award con Black Radio One. Soundcheck. Il suono della musica. Ancora la voce di Lala Hathaway, protagonista del soundcheck di Radio 24 con My Everything, ma nella versione, mio caro Francesco, del nostro amato producer Ahmed Sirur, che torna con questo suo remix recuperando la traccia di voce di Lala Hathaway e creando così un nuovo progetto sonoro per questa regina della vocalità contemporanea. Ci sono concerti di Lala Hathaway in giro per il mondo? A breve no, però il 6 dicembre, sabato 6 dicembre, si esibirà ad Huntington Beach in California al Teatro della Libreria. Dobbiamo arrivare in California, dobbiamo andare a Los Angeles assolutamente per vedere Lala Hathaway. Mi sa che ti tocca prendere l'aereo. Toccherebbe prendere questo biglietto per andare a vedere Lala Hathaway. Non so con quale tipo di organico si presenta dal vivo, però senz'altro per suonare con Lala Hathaway bisogna essere al top. Decisamente sì. Che concerti ci sono in giro per il mondo per gli appassionati di musica e per i viaggiatori italiani? Allora, andiamo a Londra, dove c'è Robert Wyatt questa sera al Queen Elizabeth Hall. Quindi si fa ancora in tempo a prendere i biglietti, sì. Anche perché noi siamo seguiti dappertutto via streaming, lo sai. Sì, lo so. The National, mercoledì 26 alla O2 Arena. Fink, giovedì 27 al Coco, Poi ci sarà un festival di musica elettronica dove ci saranno Bonobo e Gold Panda venerdì 28 all'Alexandra Palace. Ma questo stiamo parlando di Parigi? Di Londra. Di Londra, no, perché ho visto. Ti sei distratto? No, mi sono distratto, ma perché ho visto qualche settimana fa che c'era anche Bonobo in concerto a Parigi. Sì, sì, era anche a Parigi. L'avevamo annunciato qualche settimana fa. E non ti sfugge nulla, mio caro Tromba, vai. E infine ci sarà anche Morrissey con Anna Calvi sabato 29 sempre alla O2 Arena. E poi ci sarà John Grant and Royal Northern Symphony questa sera però a Manchester, se siete nei dintorni di Manchester, alla Bridgewater Hall. Possiamo continuare anche per altre città oppure ma ci no, fermiamo ad direi di fermarci qualcosa. E torniamo agli Snarky Puppy con Lala Hathaway, proprio con il brano con il quale hanno vinto il Grammy Award come migliore performance R&B nella consegna dei Grammy Award della passata stagione. Vedremo che cosa succederà quest'anno, perché noi abbiamo presentato tanta bella musica, chissà che non abbiamo portato fortuna ancora una volta a qualcuno. Qualche volta mi sa che è capitato. È capitato più volte, mio caro amico. Allora, Lala Hathaway, il brano è una vecchia composizione scritta da David Foster e Brenda Russell nella versione dei formidabili Snarky Puppy dal vivo con Lala Hathaway qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. And you're selfish, caught in the mood tonight. And you're always thinking about you. Yeah. And you're selfish, conceited by your own right. Yeah, baby, it's my point of view. Yeah. And you're selfish, caught in the mood tonight. And you're always thinking about you. Yeah. And you're selfish, conceited by your own. Il ritorno del bravissimo Jordan Rakey con la sua Selfish, brano tratto dall'album Franklin's Room, album che non troverete fisicamente nei negozi di dischi, forse qualche copia, ma soltanto se andrete in Australia. Però potrete scaricarvi tutto il progetto di Jordan Rakey, uno dei nuovi talenti del contemporary R&B, anche se poi con questo brano ha sfogato la sua passione per il reggae, proprio su Bandcamp, credo. Sì, si può anche donare liberamente, si può decidere. Ecco, con una donazione, ma questa è una cosa bellissima, sì, perché Jordan Rakey, come altri artisti, danno una libertà al valore proprio dell'acquisizione, dell'importazione del proprio progetto. Sì, anche lui ha capito che ormai i dischi non si ma vendono. Ma c'è un minimo? Perché no, alcuni vanno partendo da 3 euro o da 3 dollari potete c'è arrivare scritto, e fare la vostra donazione. Leggo testuale, c'è scritto name your price, quindi vuol dire offerta libera fondamentalmente. Ok, da Jordan Rakey passiamo a Prince dal nuovo album, il brano si intitola Clouds, qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. È beh, ogni tanto tocca autocelebrarsi musicalmente, mio caro Francesco. All I Have to Say, brano tratto proprio da New Joy, con la partecipazione del bravissimo vocalist Arnaldo Santoro, che credo stia tornando dopo 2 mesi negli Emirati Arabi in giro per concerti e performance con una strepitosa band americana. E questo per ricordarti che il 28 di novembre, quindi la prossima settimana, mi sposterò a Reggio Calabria. Sei contento? Sono contentissimo. Lo sai perché? Sì, perché verrai a suonare al Reggio Calabria Jazz Festival. Al Reggio in Jazz, quindi annunciamo subito che a Reggio Calabria ci sarà una 3 giorni di musica anche in un bel teatro. Mi sa che è l'unico teatro rimasto attivo per gli eventi culturali. Sì, il Teatro Siracusa, perché il Cile ancora com'è? Deve ripartire. Com'è? È un bel teatro. Bel devo teatro, dire. Va bene. Ci prepareremo. Allora, che cosa succede a Reggio in Jazz, Francesco? Allora, il 29 ci sarà Ada Montellanico col suo quintetto insieme a Giovanni Falzone, e il 30 Paolo Fresu insieme a Bebo Ferra, e il 28 tu appunto apropo Sound Zero. Sì, non ci sarà Domenico Sana al pianoforte perché è impegnato a New York con Brooklyn Beat, però c'è un altro pianista strepitoso della nuova generazione, si chiama Sebi Burgio, pianista siciliano giovanissimo, fantastico, quindi da non perdere la presenza di questo giovane interprete del jazz contemporaneo del nostro paese, in un organico consolidato, poi con Roberto Pistolesi alla batteria e il meraviglioso fratello Joseph Bassi al contrabbasso. Allora, chiudiamo questa prima parte del nostro soundcheck con l'album nuovo del pianista Bill Lawrence, album intitolato Flint, prodotto per lui da Michael League, leader degli Snarky Puppy, band dove milita anche Bill Lawrence. Il brano si intitola Money in the Desert e noi vi diamo appuntamento quindi alla seconda parte del soundcheck, sempre qui su Radio 24, a partire dalle 19:15. A più tardi. Sound check, il suono della musica di GG Telesforo. Diamo il via alla seconda parte del soundcheck, quella più attesa dagli appassionati di jazz del nostro paese, annunciando anche una bellissima iniziativa. Sì, perché il 5 novembre scorso la DN Kronos ha divulgato questa notizia. Dario Franceschini finanzia il jazz made in Italy con 500.000 euro. A tanto ammontano infatti le risorse messe a disposizione dal bando per il finanziamento di progetti finalizzati alla diffusione della musica jazz italiana, pubblicato oggi dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo sulla pagina della Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo. Quindi per la prima volta in tanti anni di musica jazz nel nostro paese, il governo ha capito che in qualche modo serviamo a qualcosa, o no, mio caro Francesco Tromba? Eh sì, il ministro Franceschini, con le sue parole, ricordiamo, ha detto che queste risorse permettono finalmente di riconoscere il ruolo di un genere musicale ormai radicato nel nostro paese, che esprime autentici artisti riconosciuti a livello internazionale e a un pubblico numeroso e sensibile. Quindi finalmente un ministro si è accorto ed è sensibile al jazz, alla musica jazz, ai musicisti che spesso si ritrovano in difficoltà anche perché magari non hanno praticamente dove suonare. Infatti lo scopo del bando è il sostegno di iniziative promosse da organismi pubblici o privati senza scopo di lucro per promuovere la formazione di giovani talenti e condividere le esperienze territoriali e associative. Quindi auguri alla musica jazz e speriamo che questi 500.000 euro vengano distribuiti in maniera sana, cristallina e sincera. Allora, andiamo alla musica. Visto che stiamo parlando del jazz italiano, direi di partire proprio con una musicista meravigliosa, una donna bellissima, grandissima sensibilità, grandissima preparazione e anche fama ormai riconosciuta per lei in tutto il mondo. Nuovo album con protagonista la bravissima Rita Marcotulli che incontra Luciano Biondini. Anche lui è un musicista eccellente, fisarmonicista, con il quale Rita Marcotulli dà una vita a un album per la ACT, casa discografica tedesca, album intitolato La strada invisibile. E fra i brani splendidi presenti in questa pubblicazione abbiamo scelto una composizione originale di Rita Marcotulli intitolata Vagabondi delle stelle. Rita Marcotulli e il bravissimo Luciano Biondini in duo al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. All I did was wonder how your arms would be, and it happened to sound di Chet Baker qui in versione cantante. Sì, Chet Baker in carriera ha interpretato almeno una sessantina di standard come cantante che oggi sono stati raccolti proprio in un album intitolato Chet Sings, distribuito in Italia dalla premiata distributrice Egea, che sta svolgendo un lavoro meraviglioso nel nostro paese facendo arrivare da noi album veramente belli, recuperati dalle case discografiche più interessanti in questo momento in giro per il mondo. Chet Baker in It Could Happen to You, un brano che viene studiato dai cantanti perché qui Chet Baker dà vita a un solo dischetto da imparare a memoria. E da Chet Baker, dalla voce di Chet Baker, ma naturalmente famoso nel mondo del jazz come trombettista, invece alla tromba di Fabrizio Bosso. Fabrizio Bosso è perennemente in tournée, mio caro Francesco Tromba. Non so se ci sono dei concerti in giro, però so che ancora a Roma c'è il Roma Jazz Festival, quindi possiamo annunciare qualche appuntamento presente nella nostra capitale. Sì, è quasi alla fine in realtà il Roma Jazz Festival. Domani ci sarà Franco D'Andrea con... Sì, perché Fabrizio si è esibito al Jazz Festival con Julian Oliver Mazzariello, perché è uscito anche il disco con Julian Oliver. Sì, che si chiama Tandem. Tandem, invece qui parliamo di un'altra pubblicazione e lo faremo fra pochissimo. Domani ci sarà Franco D'Andrea con il suo trio. Didi Bridgewater il 25 di novembre insieme a Theo Crocker, ne abbiamo parlato spesso. E il 26 i Pigi col suo quintetto. E il 27 Birelli Lagren, il Gypsy Project. Da non perdere Birelli. E il 28 di novembre Anthony Strong con la sua band. Che io non potrò vedere, vorrei vedere Anthony Strong che è uno dei nuovi crooner, arriva direttamente dall'Inghilterra, ma sarò, come abbiamo detto, dove? A Reggio Calabria per il Reggio in Jazz, quindi anche Reggio Calabria si dedica alla musica jazz con tre giornate, 28, 29 e 30 di novembre. Un'ultima data, ancora questa sera sono andato subito a controllare, ci saranno Fabrizio Bosso e Giuliano Oliver Mazzariello al Blue Note di Milano. Oh, bravo, hai fatto bene a ricordarmi Fabrizio Bosso, perché è proprio lui uno dei protagonisti qui al Soundcheck, con questa versione di Cantabile, proprio da questo album dedicato a Michel Petrucciani. Cantabile è una delle composizioni più belle scritte dal bravissimo Michel, che viene ricordato con questo album dal titolo Michel On Air, progetto diretto dal pianista Alessandro Collina con Rodolfo Cervetto, Marc Peillon e quindi Fabrizio Bosso. Cantabile di Michel Petrucciani per Michel On Air al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Lo abbiamo chiamato in causa, eccolo qui, Michel Petrucciani, meraviglioso musicista, persona stupenda, qui con una sua composizione, September Song, bellissima, ripresa dal vivo durante questo concerto tenuto al Blue Note di Tokyo nel 1999. Qui con Michel Petrucciani c'erano Steve Gadd alla batteria e l'immancabile Anthony Jackson. E siamo ai saluti, ma prima di salutarci e di mettere in onda l'ultimo brano selezionato per voi, direi di annunciare anche gli ultimi concerti. Mio caro Francesco, abbiamo un minuto a disposizione più o meno. Sì, siete ancora in tempo per andare questa sera al Parma Jazz Frontiere. È vero, c'è anche il Festival Jazz a Parma, dove si esibirà Steve Coleman insieme ai suoi Five Elements. Dal 27 al 29 al Blue Note di Milano ci sarà Marta and the Vandellas. E infine il tuo amico Giuseppe Bassi con il suo quartetto si esibirà il 27 al Gregory's di Roma. Fratello Joseph Bassi con il suo contrabbasso e il suo quartetto al Gregory's Club, che sta facendo un bel lavoro su Roma, svezzando intere generazioni di musicisti di jazz. Arrivano da tutta Italia per esibirsi al Gregory's. Nascono delle jam session meravigliose, si fa bella musica e ci si diverte pure. Allora, per chiudere in bellezza, eccolo qui un album che ripropone due CD che ci propongono tre album del pianista Junior Mentz. Quindi facciamo un salto nel passato, andiamo ai primi anni 60, una registrazione esattamente del 1962 per il trio di Junior Mentz, tre album: Junior's Blues, Happy Time e Big Chief, per capire chi era questo pianista. A me è sempre piaciuto, qui accompagnato da Ron Carter al contrabbasso, Mickey Rooker alla batteria. 1962, il brano, un classico di Fats Waller intitolato Jitterbug Waltz. Eccolo qui, a tutti voi buona serata, buona settimana, buon lavoro e buona musica da Gigi Telesforo e da Francesco Tromba. Grazie a te Francesco, ci risentiamo sabato prossimo, sempre soltanto su Radio 24 con il Soundcheck.